nella società, orientati dentro ad un disco bar, sotto i portici obbligofoni, di frasi, di canzoni, di commenti anonimi, piccoli fruitori radiofonici ed oratori telefonici. Oppressi da qualche triste realtà, crisi familiare o scolastica, amor carnale, amore passionale, amore vero e adolescenziale, a negarne fumo, a negarne male, della nevrosi settimanale. Soliti esempi di spontaneità, di intelligenza informatica, meticolosi nell'estetica, sedando un'anima romantica, sognatori e realizzatori, abbigliatori un poco seduttori, ferri pionieri ed incantatori, provocatori e sobillatori.